Ecco, allora possiamo incominciare. Chi è che... Allora, ich möchte an die Kollegen Lübcke, Fischer und Mercure etwas zu denen etwas bemerken. Ich fange mit Herrn Lübcke an. Herr Lübcke, ich beziehe mich auf Ihre zentrale These. Wenn vernünftig eingesehen werden kann, dass das Paradox nur für uns Paradox ist, solamente por noi Paradox ist, dann kann doch das Ärgernis als ein bloßes Missverständnis aufgeklärt werden. Das wäre ein philosophischer Einwand oder eine philosophische Frage. Ich kann das auch ins Religiöse wenden. Wenn wirklich eingesehen werden kann, dass das Paradox nur für uns ein Paradox ist, dann ist die Vernunft schon über das Paradox hinaus, weil die Vernunft das Paradox als bloße Erscheinung der Endlichkeit durchschaut. Ein Zusammenhang zwischen Gottes allmächtigem Vermögen, Gott ist alles möglich, und der Brechung durch den endlichen Verstand kann vernünftig hergestellt werden. Jedenfalls würden diese beiden Folgen für den Fall gelten, dass der Glaubende auch ein Denkender ist. Zweitens zu Herrn Kollegen Fischer. Ich habe an Ihren Thesen nicht ganz verstanden, ob Sie der Meinung sind, dass Kierkegaard überhaupt keine dogmatische Lehre, sondern nur eine auf Verinnerlichung und Aneignung zielende praktische Wendung vorgenommen hat, oder ob Sie der Meinung sind, dass er eine neue dogmatische oder keine neue dogmatische Lehre, keine neue dogmatische Lehre formuliert hat. In den Thesen 2 und 4 ist ja von der inneren Logik des christologischen Gedankens und von der Sachlogik des christologischen Problems die Rede. Von da aus ist die Polemik gegen eine vernünftige Vermittlung eigentlich gar nicht überzeugend. Und zweitens finde ich in der dritten These den Gedanken einer Repräsentanz des Göttlichen nicht paradox. Die Repräsentanz des Göttlichen ist ein ganz bekannter Sachverhalt. In jedem religiösen Symbol findet er statt. Darin kann ich noch keine Paradoxie erkennen. Und schließlich zu dem ersten Vortrag von heute Morgen, Herr Melchiore. Es hängt ja bei dieser Frage, was denn das Denkens höchstes Paradox ist, nämlich etwas entdecken zu wollen, was es selbst nicht denken kann. Es hängt ja dabei sehr viel davon ab, was man unter Denken versteht. Nun muss man doch aber sagen, erstens, dass alles Denken die Unterscheidung von dem, was es nicht selber ist, in sich vornimmt. Alles Denken ist nur Denken, weil es das, was es nicht ist, von sich selber ständig unterscheidet und darin sich als Denken darauf bezieht. Und zweitens meine ich, dass die von Kierkegaard erwähnte Leidenschaft des Verstandes nicht eine zufällige Stimmung sein kann, sondern es muss die Leidenschaft des Denkens zu sich selber sein. Insofern ist die paradoxe Leidenschaft des Verstandes zum Paradox immer auch ein Trieb der Vernunft zum Verstehen ihrer selbst. Das könnte man auch an dem Gedanken der Grenze, des Verhältnisses von Grenze und Leidenschaft erläutern. Wenn Kierkegaard sagt, es kann die schlechthinige Verschiedenheit der Verstand nicht einmal denken, dann muss man doch sagen, eine schlechthinige Verschiedenheit ist der Gedanke, in dem das Denken sich radikal verneint. Aber auch um dies zu tun, muss das Denken als Denken dabei sein. Denken ist eben das, was sich selber verneinen kann. In, insofern ist es als Gedanke der Verschiedenheit eben die Verschiedenheit von sich, als die es gerade mit sich eins ist, nämlich Denken. Ich finde aus dem allen Volk, dass der Gedanke, dass das Paradox ganz vernünftig auf den Verstand bezogen ist. Die Leidenschaft des Denkens, seinen eigenen Untergang zu wollen, ist die Leidenschaft des Denkens außerhalb seiner, im Unterschied zu sich, bei sich selber zu sein. Konklusion: Die Leidenschaft des Denkens ist offensichtlich, die Leidenschaft des Denkens zum Paradox ist offensichtlich die Stimme der Ganzheit des Menschen als Vernunft, die die strukturelle Einseitigkeit des Verstandes korrigiert. Sie ist als Selbstüberschreitung des Verstandes gerade sein Vernunftinstinkt. Man darf also die Leidenschaft des Denkens nicht nur gegenständlich verstehen, sondern als Selbstartikulation der Vernunft selber. Indem die Vernunft an ihre Grenze kommt und von dieser Grenze zu sich selber kommt, ist die Vernunft nur Vernunft als Bezug auf diese ihre Grenze. Mit ihrer Grenze ist die Vernunft erst Vernunft, als Dr. Ignorantia. Dankeschön. Io sono rimasto coinvolto nell'accostamento del professor Melchiorre a proposito della posizione schellinghiana presente nella riflessione di Kierkegaard. Sono rimasto coinvolto perché sono convinto che si tratta di un riferimento importante, ma per così dire forse anche sterile. Qui la presenza del maestro Tillet mi imbarazza sempre quando io devo entrare nei meriti di Schelling, quindi lui mi perdonerà. Ma anche lui è critico. Ah sì. Intendo dire questo. Il professor Melchiorre ha messo in evidenza come analogie e differenze tra Kierkegaard e Schelling corrono lungo tutto l'arco della produzione Schelling, se si tiene in considerazione, dico, tutto l'arco della produzione schellinghiana, dalla filosofia negativa attraverso la filosofia di mezzo sino alle posizioni della filosofia positiva. Ora io penso che se poniamo l'accento soprattutto sulle ricerche, che pure Melchiorre ha citato, ma su cui si è forse soffermato un po' en passant, io credo che lì ci sia il luogo emblematico per cogliere appunto un terreno comune e insieme la definitiva impossibilità di questo stesso rapporto. Allora mi spiego. Kierkegaard e Schelling sicuramente sono accomunati da una medesima concezione del male, nel senso che tutti e due considerano il male come positivo. Il male è positivo perché è un atto dello spirito. Schelling, come si sa, sostiene che il male ha un'origine spirituale e non corporale, perché il corpo è come un fiore da cui gli uni suggono il miele e gli altri il veleno. Gli fa eco Kierkegaard quando sostiene che appunto il male non è mai la sfrenatezza della carne, ma è sempre l'impulso che a questa carne conferisce lo spirito. Ora, questa analogia va subito intanto ridimensionata perché, per esempio, uno studioso come Jean Val ha messo in evidenza che in fondo le ascendenze kierkegaardiane in Kierkegaard di questa posizione sono piuttosto da rinvenire in Bader e non tanto in Schelling. Ma a parte, dico, questa notazione di Val, c'è da considerare che proprio dentro le ricerche viene sbozzata una teodicea che non consente più nessun accostamento, secondo me, con la teodicea kierkegaardiana. E infatti la teodicea che emerge da Schelling è tendenzialmente conciliativa. Si tratta di pensare conciliativa, si tratta di pensare il male come necessario all'esistenza stessa di Dio, dice Schelling, in polemica, come si sa, con la posizione idealistica che, secondo Schelling, relegherebbe Dio in una metafisica lontananza da cui si può cominciare ad uscire soltanto, appunto, se si pone una dialettica di Dio in cui il male ha un ruolo insostituibile. Viceversa, per Kierkegaard, il male, sotto forma di peccato, ha una valenza duplice, direi ancipite e perciò paradossale, nel senso che il male è insieme nesso e rottura del rapporto teandrico, è la condizione attraverso la quale l'uomo si pone in rapporto a Dio, perché non c'è peccato che dinanzi a Dio, ma insieme è ciò che contrassegna la metabasis eis allogenos, in quanto è proprio l'assenza del peccato in Dio a costituire il salto in senso proprio. D'altra parte, la figura di Cristo, come abbiamo in maniera direi molto efficace appreso stamattina, non può essere utilizzata come soluzione della teodicea in chiave conciliativa, perché appunto la cristologia kierkegaardiana è paradossale per definizione. Allora, da questo punto di vista, io credo che difficilmente, se appunto ci si attiene e ci si attesta alla posizione che entrambi nutrono nei confronti di una categoria così centrale come quella di male, difficilmente sarebbe possibile prospettare una ipotetica conciliazione. Grazie. Io dicevo dopo il relatore Regina, chiedevo se c'era qualcun altro che voleva prendere la parola, perché per fare un calcolo, se non c'è nessun altro, io anch'io una cosa a te. Quante cose, una anche a te. Posso sottrarmi? Sarò molto breve. No, cercate di essere brevi, sì, questo breve. Volevo dire, perché è una cosa un po' brusca essere brevi. Insomma, no, le cose dette sono state interessantissime, ci siamo arricchiti molto questa mattina, e un'osservazione farò molto, molto rapida al professor Melchiorre, che ha orientato, se non ho frainteso, la sua sottile e puntuale ricerca sulla riconduzione dell'organismo teoretico kierkegaardiano al concetto di essere come infinito, un organismo teoreticistico per cui c'è un fondamento nella paradossalità kierkegaardiana. L'insistenza è stata sull'essere. Io vorrei chiedere al professor Melchiorre se questo fondamento, il ruolo fondamentale che dà razionalità alla paradossalità kierkegaardiana, se non sia questo ruolo di fondamento da dare all'inter-esse e non all'esse. Inter-esse. Nella postilla Heidegger, prendendo dal latino, anche in danese interesse è interesse, come in italiano, come in tedesco. Ecco, e quindi Kierkegaard prende dal termine danese interesse, che è anche latino, mette un trattino, perché per lui l'inter-esse è un legame fra i diversi. Solo l'inter-esse mi fa uscire da me, mi tira fuori. L'esistenza lega l'esse, perché l'essere non è l'essere di Parmenide. Kierkegaard è davvero colui che batte Severino, diciamolo forte, a noi italiani interessa molto questo. perché l'essere non è il puro non essere nulla, è l'interesse che mi sta a cuore, che mi appassiona. Questo è il vero essere, questo è un presupposto che non è presupposto. E allora comprendiamo perché ha distrutto la prova ontologica, perché non l'accetta, perché qui non c'è interesse nella prova ontologica, perché se mi interessasse Dio, ce l'ho già, perché mi interessa, non c'è bisogno di dimostrarlo. L'essere che mi interessa ce l'ho già. L'esistenza reale non è il fatto empiricamente pensato, ma è la cosa che mi sta a cuore, sei tu, il mio collega Penzo, eccetera. Lui sì che esiste, ecco, grazie. Non è un ipotesi. Ma, non perché sei un fatto, ma perché mi stai a cuore. Va bene. Questa è la vero, l'antitesi, la novità. Ecco, accontentati, vai. E da qui, vero, la passione, il paradosso è una passione, e qui non so, ecco, non tanto perché è attiva e passiva, non direi che questo, ma perché è estremamente interessante, coinvolgente, ecco. Quindi al di là di quell'attività e passività che possono essere oggettivati e ancora ricondotti a quel vecchio concetto parmenideo greco che Heidegger vuol su, basti pensare che Kierkegaard afferma addirittura nella postilla che Dio non pensa, Dio crea, perché gli sta a cuore l'essere della creatura, non pensarla, al di là del nus aristotelico. Dio non pensa, Dio crea. Una domanda al professor Tietz, se permette, vero? Ecco, in quel bel racconto là, poetico, c'è quella ragazza di umilissima condizione. Il re si innamora di questa ragazza. Il dignitario di corte, il ministro, vuol togliere dall'animo del re un dubbio, un chagrin, vero? Il re dubita, ma come potrà amarmi questa ragazza? Riuscirà ad amarmi come io voglio essere amato da lei? Subito il dignitario dice, maestà, ma questa ragazza cade ai suoi piedi, è una ragazza da niente, vero? Allora il re si infuria, condannato a morte per lesa maestà. Io non mi innamoro di una ragazza da nulla, la mia ragazza poverissima è nobilissima. Allora le chiedo, questa ragazza, nobilissima anche se di umilissima condizione, che il re tuttavia ritiene degna di andare a corte, degna di diventare regina, è un presupposto filosofico o teologico soltanto? Io lo vedo come possibile filosofico, cioè la restaurazione integrale della dignità dell'uomo, in questo caso per fortuna della donna, degna di essere portata alla corte del regno di Dio. Grazie. Prego. Sì, allora, siccome siamo verso la conclusione, Trietti devi fare la domanda? Bueno, sono d'accordo anche con ciò che ha detto il professore Regina adesso, ma la punta di Kierkegaard è piuttosto il fatto che il re, per non umiliare la povera ragazza, si abbassa a essere come uno di noi. Questo è un punto più importante e filosofico anche, come l'altro. Poi vorrei dire che c'è una tesi della Gregoriana, adesso mi sfugge il nome dell'autore, che è un austriaco conosciuto. È una bella tesi della Gregoriana sull'interesse in Kierkegaard, Kant in Kierkegaard. A Melchiorre volevo dire, e anche a provare ciò che ha detto Modica, soltanto questo: non si deve mai dimenticare, in questi rapporti così difficili fra autori, quindi Schelling e Kierkegaard, che non è esattamente un confronto Schelling-Kierkegaard, bensì un confronto Schelling-Climacus, che è Kierkegaard ma non tutto Kierkegaard, e questo smorza un po' l'argomentazione. Quindi Kierkegaard non è così impegnato in questa discussione dell'argomento ontologico e tutto. Poi siamo d'accordo, e questo per me è un sollievo, sul fatto che non regge l'argomento di Schelling. Sebbene lo conosco, l'ho studiato, non regge nel senso che dire che che Dio è l'esistente necessario se esiste è come l'altra formula una tautologia. Vuol dire soltanto che ci sono livelli di esistenza. Perché Schelling ha voluto tanto mantenere questo immemorabile, questo esistente necessario, che è come una specie di blocco di ferro nel fondo del suo sistema? Questo rimane il suo segreto, perché voleva certamente riagganciare con la età del mondo e tutta la sua prima filosofia. Soltanto vorrei dire, ma questo professore Melchiorre lo sa bene, ancora meglio di me, e che non è l'ultima parola di Schelling, e c'è un altro brano, un altro testo famoso di Schelling, l'ultimissimo Schelling, che in certo modo lo avvicina moltissimo a Kierkegaard. E questo passaggio dell'ultimo capitolo incompiuto della filosofia razionale o negativa, prima allora razionale, dove c'è questo sorgere meraviglioso dell'io, e dell'io non soltanto dell'io morale etico, ma dell'io tutto affettivo, tutto di un colpo, che richiama la persona, person sucht person, la persona cerca e chiede la persona. E allora lì, in questo ultimo brano del Schelling molto vecchio, mi sembra che è come un omaggio quasi postumo a Kierkegaard, che è morto un anno dopo il nostro. Bene, grazie professori. Ecco, allora permetto una breve parola anche a te. Sì, il rapporto con Lutero, cioè Kierkegaard e Lutero, va bene? Si mette adesso Kierkegaard und Lutero. Ja, ist eine Frage. Etwas tiefer so antworten, ja? So, wo, wie dieses Verhältnis ausgeht, ja? Adesso cerchiamo di dare risposte. Allora, chi comincia? Cominciamo per ordine. Per ordine, eh? Möglichst ist kurz. Ja, das ist kurz. 1 Uhr müssen wir essen. Oder fast. Ja. Fast in der Mitte. Also das ist eine Antwort zu Ringleben. Sie haben gesagt, also wenn die Vernunft einsehen könnte, dass das Paradox nur ein Paradox von uns sei, dann gäbe es die Möglichkeit, eine Verbindung von Glaube und Vernunft. So habe ich Ihre Kritik verstanden. Also ich bin einig, das war aber auch nicht die These, dass die Vernunft so etwas verstehen könnte. Die Vernunft hat nicht die Möglichkeit zu sehen, dass das Paradox für uns nur für uns ist. Die Vernunft kann das Paradox nur als ihrer Grenze begegnen. Der Glaube dagegen glaubt, meiner Interpretation nach, und vielleicht sind wir dann auch strittig da, dass für Gott alles möglich ist. Ich interpretiere dann möglich als nicht kontradiktorisch. Und das heißt, dass der Glaube glaubt, dass obwohl es für die Vernunft, und das heißt auch für den Gläubigen, vernunftstrittig erscheint, dass so etwas wie eine Inkarnation möglich ist, dann ist es trotzdem für Gott möglich. Danke. Grazie. Herr Ringleben, ich habe zwei Fragen aus Ihrem Votum entnommen. Das eine, ob Kierkegaard denn gar keine neue Lehre vorgetragen hätte oder keine Lehre vorgetragen hätte. Ich weiß nicht, ob ich damit Ihre Frage richtig treffe. Also natürlich hat Kierkegaard eine Lehre vorgetragen, er hat eine christologische Lehre vorgetragen, hat eine Lehre von der Sünde vorgetragen, etc., etc. Was ich sagen wollte, war dieses, er hat gewissermaßen die substanziellen Bestandteile, jetzt im Blick auf die Christologie, die substanziellen Elemente der Christologie so belassen, wie sie ihm überkommen sind. Und man kann sagen, das, was er mit seiner Paradox-Christologie getan hat, ist dieses, dass er gewissermaßen diesen traditionellen Lehrbeständen durch den Gedanken des Paradoxes, des Ärgernisses, des Sprunges gewissermaßen Farbe neue Farbe und einen neuen Ton verliehen hat, aber in der Sache selbst exponiert er diejenige Problemlage, die Schleiermacher oder auch Luther in den Heidelberger Disputationsthesen entwickelt. Also insofern durchaus eine neue Lehre. Das Paradox, der Paradoxgedanke bringt gewissermaßen die neue Farbe, den neuen Ton in die Christologie hinein. Die zweite Frage ist mir jetzt nicht so ganz deutlich geworden, die Repräsentanz des Göttlichen in Gestalt eines Menschen. Ich meine damit gar nichts anderes formuliert zu haben, als das, was Tillich in der systematischen Theologie formuliert. Das Paradox der christlichen Botschaft besteht eben darin, dass in einem personhaften Leben etwas erschienen sein soll, was gar nicht erscheinen kann. Das Geschichte, das Ursprüngliche kann eigentlich im Geschichtlichen nicht repräsentiert sein. Und dieses, das nicht zusammen, sich nicht zusammenfügt, was aber theologisch doch zusammengedacht wird, das macht das Paradox aus. So viel in Kürze, wir können nachher weiter disponieren. Ich hatte noch eine Frage an Herrn Lübcke, aber die darf ich jetzt nicht mehr stellen, nicht? Denn wenn wir um eins essen wollen, dann stelle ich sie beim Mittagessen. Sie? Bene, molto brevemente ringrazio gli amici che hanno voluto darmi consigli e interventi. E sono perfettamente d'accordo con il padre Tiet, il confronto con Schelling è un confronto con Climacus, che è una piccola parte all'interno dell'intero discorso di Kierkegaard. Tuttavia direi che Climacus non muore quando interviene Anticlimacus, cioè c'è questo filone speculativo che Kierkegaard porta con sé. E, chiaro, se ci poniamo dal punto di vista dell'Anticlimacus, le differenze diventano enormi, io sono perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto Modica. E tuttavia, e quindi da quel punto di vista il confronto diventerebbe non solo sterile ma inutile. Ho ricordato d'altra parte quanto Kierkegaard ironizzi sullo Schelling positivo, no? Che attribuisce sentimenti, gioie, comicità, insomma è uno Schelling che Kierkegaard non può accettare. Ma tuttavia siamo filosofi e a me interessava pur vedere se, insomma, per chi eserciti il mestiere di pensatore, il discorso di Kierkegaard alla fine è il discorso di Climacus, che è una piccola cosa ma che non muore all'interno della vita di Kierkegaard, abbia un senso, se insomma la paradossalità di cui parla Kierkegaard è un'apertura sull'irrazionale o no. Ecco, allora dal punto di vista speculativo mi pareva di poter attraverso anche l'incontro con Schelling mostrare come questa paradossalità sia semplicemente scandalosa per l'intelletto, e qui mi pare che l'intervento del collega Ringleben sia stato molto importante. Io all'inizio della mia relazione distinguevo appunto intelletto da ragione. Ecco, certamente dal punto di vista di una ragione determinante e determinata, l'ambiguità di finito infinito, di condizionato incondizionato, diventa scandalosa. Ma per altro verso qui siamo, ecco, piuttosto direi nella posizione di quel Kant che parla del limite, la differenza fra limite e confine, Schrenke, no? Ed Ende, dove il limite porta con sé la consapevolezza e il pensiero dell'oltre, di ciò rispetto a cui il limite è limite. E in questo senso mi pare che dunque lo stesso discorso di Kierkegaard porti con sé un forte elemento di razionalità, quella che mi portava a parlare in un certo modo che forse non sono riuscito a spiegare bene, della passione, qui parlo anche con Regina. Quando dico di una passione passiva e attiva insieme, volevo dire appunto questo, che se il riferimento radicale, il riferimento alla condizione, l'ultima condizione, la condizione incondizionata dalla quale sono costituito, allora in questo senso che parlo di passività, nel senso che sono abitato e attratto, è richiamato da questa radicalità, a questo punto la passione diventa attiva, perché io desidero incessantemente aprirmi a questa radicalità. E allora in questo senso valgono tutto quello che tu dicevi molto bene a proposito dell'interesse, una parola che col trattino interesse ritorna, se ricordo bene, molto anche nel primo scritto del giovanissimo Kierkegaard, De Omnibus Dubitandum Est, dove Kierkegaard, giocando anche con Zweifel, Zweideutigkeit, eccetera, no? Con il numero due, fa notare che sta parlando di interesse, proprio di una duplicità o di una ambiguità radicale del pensare che è per un verso dalla parte del finito, per altro verso aperto ad una ulteriorità. E di qui il richiamo, insomma, al Menone, a cui che indicavo all'inizio della mia relazione, dove appunto il discorso del Menone è di nuovo quel discorso che sta alle radici della ragione, che proprio in quando domanda sul fondamento è ad un tempo un sapere e un non sapere. Ecco. E qui mi pare che ci sia un filone di razionalità profonda che non dobbiamo perdere. È chiaro, dal punto di vista poi dell'anticlimacus, del paradosso più propriamente cristiano, che è la parte più rilevante, che sta più a cuore a Kierkegaard, quel paradosso di cui abbiamo sentito stamane parlare, e allora le cose un po' si complicano. In effetti, l'ultimo Kierkegaard, ma anche il Kierkegaard della fine della postilla, chiaramente viene a parlare di un credere contro ragione. Ecco, ma a questo punto il discorso si riapre, cioè si riapre sulla questione, sul paradosso che non è più il paradosso dell'uomo religioso, la religiosità A, ma è il paradosso dell'uomo religioso cristiano, la religiosità B, e a quel punto certamente i problemi diventano più complessi. Io li ho lasciati da parte, li ho trattati in un'altra occasione, in un altro scritto. A me sembra che a quel punto Kierkegaard sia debitore di una cristologia che in termini contemporanei potremmo dire una cristologia dall'alto, un'incarnazione del verbo in un evento storico che crea indubbiamente una serie di difficoltà e che alla fine portano a quella paradossalità in qualche modo irrazionale dell'ultima parte della postilla. Forse una cristologia dal basso risolverebbe molte cose, ma questo è un dopo Kierkegaard, Kierkegaard non c'entra più. Ecco, quindi il mio sforzo era solo quello di trovare, dal punto di vista di uno che si propone di pensare, se in qualche modo ci sia Kierkegaard quel decadimento della ragione di cui Lukács, per esempio, ha parlato in termini estremamente incomprensibili, no, per chi si ponga in una prospettiva non ideologica e non marxista, come fu il caso di Lukács. Grazie.